e chiamerei al tavolo i due comunicanti, il professor Zanatta e il professor Regina. Ecco, qui dobbiamo fare un poco di conti, siccome pensiamo di uscire da questa sala non all'una meno un quarto, comunque non oltre l'una meno 10. Ecco, prego di distribuire il tempo, era già previsto per le comunicazioni 15 minuti, proviamo di attenersi ai tempi in maniera da dare poi lo spazio adeguato ad entrambi per poter intervenire. Prego, la parola al professor Zanatta. Grazie. Il tema della mia comunicazione è il divino, la possibilità del divino e del sacro nel pensiero di Heidegger e intende espressamente rimeditare un'istanza che è apparsa peraltro molto chiaramente anche in queste giornate, e cioè che in fondo la rimanifestazione del Dio divino, dell'ultimo divino, dell'ultimo Dio, dipende dalla morte del Dio metafisico, del Dio dell'ontoteologia. Ecco, su questo concetto, no, sul rapporto tra il Dio della metafisica e il divino, vorrei appunto svolgere queste quattro considerazioni che, proprio per poter mantenere nel tempo rigoroso che mi impongo, accettando evidentemente, preferisco riassumere anziché leggere, rimandando poi magari agli atti per un svolgimento documentato più esauriente dei meri cenni ai quali sarò costretto qui. Ecco, nella tradizione occidentale il concetto di Dio e il concetto di divino sono paronimi, e nella misura in cui la paronimia, come ci insegna Aristotele, è una omonimia pros hen, evidentemente esiste un terreno comune, un denominatore comune. E a ben guardare, anche quando il divino totzeion nella filosofia greca, soprattutto presocratica, compare come aggettivo sostantivato, quindi in funzione tale da non poter essere paronimo di otzeos, appunto perché sono due sostanze, ciononostante esiste sempre, è sempre garantita una omonimia pros hen, come ci esprime espressamente Aristotele nel libro quarto, capitolo secondo della Metafisica. Ora, proprio questa unità di riferimento, questo pros hen, che nella tradizione occidentale esiste tra Dio e il divino, pare smentito, anzi negato, dal pensiero di Heidegger. Si diceva appunto la ricomparsa dell'ultimo Dio, la ricomparsa del divino comporta, no, la morte del Dio del Dio metafisico, dell'ontoteologia. Che senso ha questa affermazione? È possibile ricomprendere il Dio dell'ontoteologia nel divino? E avrebbe senso questa operazione nella prospettiva heideggeriana? Ecco, credo che per rispondere a questa domanda occorra tener conto di quello che è per Heidegger il sostrato della metafisica, ossia una duplice direzione, un duplice movimento. Per un verso, l'occultamento dell'essere ridotto alla stregua di ente. Ecco il punto, questa riduzione, no, questo oblio della differenza ontologica ha pur sempre valore di testimonianza dell'essere, sicché dunque è una testimonianza che nell'atto stesso di testimoniare tradisce ciò che vuole testimoniare. Ecco questa duplice direzione, no? Apertura della metafisica alla verità dell'essere, che però tradisce nell'atto stesso che si propone meditare e di testimoniare. Mi pare che due figure in questa direzione siano particolarmente rilevanti agli effetti di qualificare Dio, il Dio della metafisica, la nozione di fondamento e il nulla, il concetto di nulla. La nozione di fondamento emerge nel contesto della metafisica, per Heidegger, nella traduzione nei modi dell'ente di quella funzione dell'essere come orizzonte dei significati, l'essere nell'orizzonte della testimonianza della sua verità è il senso dell'ente, è ciò che lascia apparire l'ente. Ma una volta che l'essere sia pensato secondo i modi dell'ente, allora il senso diventa ciò che pone in essere l'ente, dunque il fondamento, ciò su cui quell'ente che di per sé stesso può essere, può non essere, ha bisogno di essere radicato nell'essere, appunto il fundum, il fondamento. Parimenti dicasi il nulla. Il nulla, ci insegna Heidegger, basti pensare a Sein Zeit, non viene accostato originariamente in una esperienza teoretica, ma in una esperienza emotivo esistenziale, e non significa l'annullamento dell'ente, ma laddove appunto l'essere sia tradotto in termini ontici, anche il nulla subisce questa sorte, diventa appunto il non dell'ente, l'annullamento dell'ente, donde la necessità di reperire un ens firmissimum sul quale si radichi e sul quale si fonde la totalità di quell'ente che può sia essere che non essere. Ma ecco il punto, proprio sotto questo profilo la nozione di Dio, del Dio metafisico, come ens summum, cioè causa prima, anzi causa prima incausata che addirittura è creante, è creatore nella versione certamente non greca, ma nella versione cristiana, che esclude da sé il nulla, no? E in questo senso rappresenta il punto estremo dell'oblio della differenza ontologica e quindi il punto della distanza massima dalla testimonianza della verità dell'essere. Ma proprio in virtù della duplice direzione della metafisica, una testimonianza che tradisce, io credo che si possa abbozzare all'interno di questa stessa nozione di divinità un terreno che induca a vedere come nei tratti pur identificati del Dio della metafisica ci sia una testimonianza della autentica apertura della verità dell'essere, tradotta però e dunque mistificata secondo i modi dell'ente. Credo di poter scorgere questa dimensione nel concetto di trascendenza. Ho ben chiaro che la trascendenza del Dio della metafisica è una trascendenza che si esprime sempre sul piano dell'ente, tra due livelli di esistenza. Ma proprio questo aspetto, no, diventa la traduzione nei modi ontici, quindi inautentici, dell'autentico trascendersi dell'esserci, che è una dimensione di apertura ontologica. Questa considerazione mi pare peraltro suffragabile attraverso la considerazione anche storico-filologica di una serie di affermazioni di Heidegger intese a far coincidere l'esserci come nella sua portata di trascendenza con la metafisica stessa. Heidegger dirà espressamente, e cito, unicamente perché il niente si svela nel fondo dell'esserci, l'esserci può, egli può scorgere dentro di sé un senso della piena straneità dell'ente. L'esserci umano può riferirsi all'essente soltanto se si tiene dentro al niente. L'uscir fuori dall'essente, per vederlo dall'alto, avviene nell'essenza dell'esserci. Questa uscita è la metafisica stessa. Ecco appunto questa duplice direzione. Traduzione, no, dei modi ontici, quindi dimensione inautenticante, di una dimensione autenticante. Ma allora, se il Dio della metafisica, in quanto trascendente, testimonia con la trascendenza in maniera inautentica, cioè ontica, una dimensione autentica, io credo che alla domanda posta inizialmente si possa rispondere che la verità del Dio metafisico, ossia la verità che la metafisica esibisce con la nozione di Dio, consiste nel porre in chiaro che Dio non è un alcunché di esistente, dunque neppure quell'ens summum al quale si è accennato, ma è un senso che avvolge l'esistente e nel quale esso si manifesta innanzitutto nella sua totalità. Sganciare appunto Dio dall'esistenza per ricondurlo al senso, questa può essere la direzione di un'ermeneutica del passo indietro dello Schritt zurück nella direzione heideggeriana. Ma appunto un Dio che nell'autenticità e nella verità di ciò che è non si attesta affatto come un esistente, ma come il dispiegarsi di un senso, è propriamente il divino. La verità e l'autenticità della nozione metafisica di Dio portano a questa figura del divino. Se avessi tempo, cosa che so benissimo che non ho, mi diffonderei a vedere, a cercare di vedere possibili itinerari di coincidenza attraverso le figure della memoria, della Gedächtnis, no? Dell'Andenken, ossia del pensiero rammemorante, su questi due piani, cosa che ovviamente mi ovviamente trascuro di fare, passando decisamente alla conclusione, che può essere pensata in questi termini. Il divino, per l'aspetto per cui rivela il senso del mistero e del nascondimento che avvolge la verità dell'essere e dal quale l'essere porta l'ente a manifestazione, si riveste di una sfera di reverenzialità che lo configura come il sacro. Adesso Heidegger accede attraverso il linguaggio poetico, cui si connette costitutivamente la ricerca, mediante l'istituzione di etimologie solo in apparenza astruse, dell'originario significare delle parole essenziali che il linguaggio della metafisica ha poi occultato. Ciò che originariamente evocano tali parole si costituisce esso medesimo su una struttura della identità e della differenza. Ora, proprio la rottura del rapporto identità-differenza sta alla base della nozione metafisica di Dio, la quale, in una assoluta autoreferenza, risolve la relazione col diverso nella unità del sé con se stesso. Basti pensare alla noesis noeseos aristotelica. Laddove il divino e il sacro esibiscono un mutuo traspropriarsi dell'essere e dell'esistente come evento che caratterizza il dispiegarsi del senso, il Dio, nella verità della nozione che istituisce, si stacca sì dall'esistente, non è un ente, no? Si stacca sì dall'esistenza, dall'esistente, per ricondursi alla dimensione del senso, ma risolve quest'ultimo in un assoluto sé. Ecco appunto allora che qui si emerge chiaramente la figura della contraddizione. Laddove il senso non è un ente, il Dio della metafisica autenticato nella sua verità è un senso che è un esistente, non è un esistente. Qui si configura espressamente il senso di una contraddizione e dell'opposizione di cui all'inizio mi ero proposto di ricercare la dimensione essenziale. Credo di essere stato. Grazie al professor Zanatta per una serie di motivi, innanzitutto l'applauso. Ecco. È stato puntualissimo e contemporaneamente filologicamente ineccepibile e problematizzante. Cosa vogliamo di più? Ecco, ringraziamo di nuovo il professor Zanatta e do subito la parola al professor Umberto Regina, docente di filosofia della storia e filosofia morale all'Università di Verona. Anzi, scusate, apro una parentesi. nel presentare il professor De Vidisi ho tralasciato il ruolo più significativo che gli svolge poi all'Università di Chieti, è preside, essere preside un surplus, invece in realtà è ordinario di filosofia della religione innanzitutto, e quindi è giusto che gli si riconosca questo